Ethno Chic, musica ad indicazione geografica protetta. Musica con indicazione geografica protegida. Musique avec indication géographique protégée. Music with a protected geographical indication. Buonasera e bentornati a Ethno Chic qui su Radio Città del Capo 94.7 e 96.250 di Bologna per un'altra diretta a parlare di musica, appunto, indicazione geografica protetta, quindi musiche tradizionali, musiche delle culture dei popoli del mondo. E questa sera facciamo un salto nel Mediterraneo con una registrazione particolare. Non avremo ascolti, avremo ascolti da diverse parti del Mediterraneo, però sostanzialmente da un'unica raccolta, che in realtà erano due dischi LP che sono usciti all'inizio degli anni 50 e che erano delle registrazioni di musiche tradizionali del Mediterraneo, curate da un certo Henry Cowell. Chi era Henry Cowell? Henry Cowell è un compositore americano, nordamericano, il quale ha avuto una formazione molto, come musicista, molto varia, nel senso che non ha fatto solo studi come pianista e poi è stato insegnante, ma si è anche interessato molto alla musica tradizionale, tanto che addirittura nel 1931 si reca a studiare quella che allora si chiamava musicologia comparata, cioè a Berlino, che era con Hornbostel, che è praticamente uno dei fondatori di questa disciplina che poi oggi conosciamo più con il nome di etnomusicologia. E anche se nelle sue composizioni assolutamente non troviamo tracce o comunque ci sono poche tracce riferite a questa cultura musicale, potremmo dire di musiche tradizionali, lui ha studiato musica carnatica, dei bali, e nell'archivio che conservato a New York ci sono alcune sue trascrizioni anche di musica, perché lui ha curato poi diversi dischi per appunto la Folkways, che è questa etichetta, ora si chiama Smithsonian's Folkways perché è stata acquisita dalle Smithsonian Institute di Washington. E allora era un'etichetta, potremmo dire, quasi indipendente che pubblicava dischi di musiche tradizionali, di canzoni popolari, per esempio di folk singer come Woody Guthrie, e così fino ad oggi, ancora adesso è molto attiva. E si distingueva per appunto avere registrazioni raccolte un po' in tutto il mondo, avere dei curatori di eccellenza e anche le registrazioni di una buona qualità. E comunque a me interessava farvi sentire questo perché in realtà negli anni 50 molte di queste tradizioni musicali non erano state ancora indagate a fondo, insomma per alcuni di questi paesi le prime registrazioni non erano di molti decenni prima, insomma che siamo negli anni 50 e che ne so, abbiamo visto l'altra volta appunto in Etiopia la prima registrazione è del 1910. E quindi partiamo con questo ascolto, partiamo da un canto arabo, da un canto di preghiera arabo che viene dalla Palestina e che appunto Cowell recuperò dall'archivio del Dipartimento di Antropologia dell'Università di Gerusalemme. وجلسنا في حماه صفصفه خيمت اغصانها عطفا علينا وجلسنا في حماه صفصفة out of nelle descrizioni che appunto nel libretto che accompagna questo disco Henry Cowell quando descrive appunto i singoli brani si sofferma molto sugli aspetti del insomma formali, insomma quasi di teoria musicale legati proprio a questo tipo di musiche, anche cercando un po' di rifarsi a parametri occidentali, per cui e anche perché in qualche modo appunto queste musiche erano proprio pensate anche per questi dischi, per farli ascoltare a un pubblico insomma di studenti, di appassionati, di studiosi che non avevano mai avuto un approccio con questo tipo di musica. E quindi c'era anche il discorso, se si vuole, didattico e quindi magari anche l'uso di termini insomma della musica occidentale. Il prossimo brano viene dal sud dell'Egitto, quasi al confine col sud, è un canto ritmico vocale, Nur Janini, e Abdullah Mai è il cantore che poi rispondono, è un canto quindi a risposta e andiamo a sentirlo. نزلي في حبك هواني لو تخلد وجدي تواني لا يزحزح عهد وطيد الله لو جناني ذلت حضاني يا جواهر عيد الله ما نفري قلبي وبطر غاني يا هدي لا يحن رخضراني يبقى بسم المحبوب تراني يبقى بسم المحبوب تراني أين شاعر أوصف كمالك أو يحط الخنصر شمالك هل في هذا العالم لبيد والله نور جمالي وقبلك حماني يا جواهر عقد اللطيف والله فليلا لليلا وليلا الله يا ليله الله يا ليله Dice Henry Cowell che praticamente il Mediterraneo è un'area, forse un'area del mondo, per lui l'area del mondo dove più si sono conservate tracce dell'antica tradizione, dell'antica civiltà. E in qualche modo è sicuramente vero, perché se pensiamo a molti degli strumenti musicali che ancora possiamo vedere nei bassorilievi dell'antico Egitto dell'arte sumera o dell'antica Grecia o, insomma, tutte le popolazioni che si sono affacciate nel bacino del Mediterraneo migliaia di anni fa, e possiamo trovare comunque più o meno tutti gli strumenti che poi con i propri variazioni e modificazioni attraverso i secoli, molti secoli, ci troviamo ancora adesso, come per esempio il liuto, l'arpa, i flauti doppi, gli oboi doppi, il clarinetto e via dicendo. Prossimo brano, per esempio, abbiamo il canto, è un canto berbero della Libia, e abbiamo anche appunto uno strumento, uno di questi oboi tradizionali, e andiamo a sentire questo brano libico. Ecco, ci tengo a dire che il fruscio che sentite di fondo è proprio il fruscio del vinile originale, quindi questa è una registrazione presa dal vinile e quindi è rimasto proprio. E, registrazioni che venivano in parte appunto dall'archivio di Henry Cowell e in parte invece da altri ricercatori. Per esempio questa era del grande Moses Ash, che è stato proprio il fondatore della Folkways. e che fino alla sua scomparsa appunto è stato il motore principale proprio degli anni possiamo dire degli anni d'oro della Folkways, quindi tra gli anni 40 e gli anni 60, in cui hanno registrato per la Folkways personaggi come appunto Woody Guthrie, Pete Seeger, ma anche collaboratori come Peter Bartok, il figlio di Bela Bartok, che è ancora vivo e ancora cura e riedita i lavori di suo padre negli Stati Uniti. E andando avanti in questo percorso nel Mediterraneo, sentiamo una danza Hawley, che il nostro Cowell non ci spiega se esattamente è il tamburo o lo strumento a fiato che sentiamo insieme alla voce nella registrazione. Ed è una registrazione che viene dalla Tunisia. Quindi andiamo a sentire questa Hawley Dance. Siamo sempre su Etno Chic, Radio Città del Capo, 94.7, 96.250. E non vi ho detto prima che Henry Cowell, oltre a essere un pianista, un insegnante, un teorico, appunto uno studioso di musica di tutti i tipi, è soprattutto un compositore di musica moderna, proprio molto sperimentale, ed è ancora adesso un riferimento per chi si occupa di musica sperimentale, improvvisazione. Infatti lui per esempio aveva anticipato il pianoforte preparato di John Cage con la tecnica del piano pizzicato, che chiamava anche arpa eolica, no? Quindi lui praticamente, invece che suonare la tastiera del pianoforte, pizzicava direttamente le corde dentro. E, insomma, un personaggio molto, molto interessante, anche, anche le sue composizioni sono molto, abbracciano stili molto differenti, e poi ha voluto anche un po' occuparsi di queste cose mettendole per iscritte, con un lavoro molto importante che si trova anche in italiano, che è Nuove risorse musicali, che pubblicò nel 1930, se non erro, in cui praticamente spiegava i suoi concetti ritmici e armonici basati appunto su vari elementi. Che è stato riferimento per tutta la musica sperimentale statunitense e non solo, insomma, dagli anni 30 appunto in avanti. Lui poi è mancato nel 1965. Proseguiamo il nostro giro con una danza rituale Awak dal Marocco, che è praticamente una danza in cui ci sono ben 18 suonatori, 15 suonatori di tamburo, e che suonano i tamburi intorno a un fuoco che gli serve anche per indurire la pelle, e ci sono poi delle ballerine che poi a turno cantano, eccetera eccetera. E andiamo a sentire questa danza rituale dal Marocco, esattamente dall'Alto Atlante. Thank you. 21, 58 minuti e 39 secondi. Siamo su Radio Città del Capo 94.7 96.250 in diretta. Come avete capito, questa sera sono da solo e stiamo ascoltando questo disco di registrazioni di musica del Mediterraneo, uscito in due LP a cura di questo compositore studioso Henry Cowell per la Folk, questa etichetta fondata da Moses Ash, e di cui che abbiamo detto appunto importante promotore culturale, possiamo definirlo così, appassionato e studioso di musiche tradizionali, e il quale adesso vi facciamo sentire, sempre dal suo archivio, un brano, un baile del Carbanero dalla Spagna. Non ho fatto in tempo a dirvi, perché è partito subito, non mi ero accorto, mi ero distratto, che questo brano appunto è un brano zapateado, fino a che sarebbe un tipo di composizione ritmica, insomma, legata alla tradizione dei gitani del sud della Spagna, che poi quello poi anche del che ha in comune anche con il flamenco, insomma, quello che poi dà la tradizione primigenia del flamenco come poi lo conosciamo noi, insomma, dice quella gitana andalusa, e avrete riconosciuto nella canzone la musica di una famosa melodia della guerra civile spagnola del bando repubblicano, che sarebbe lo Cuatro Generales, che infatti anche quella è una canzone di origine tradizionale. Facciamo un salto proprio dall'altra parte, dall'estremo occidente all'estremo oriente, e perché questo credo fosse proprio il secondo disco, quindi per questo no, perché anche dopo finisce con un brano spagnolo. In ogni caso, seguendo un po' la successione, salteremo qualcosa. Questo brano turco con canto d'amore è suonato con l'oud, che è uno strumento appunto che abbiamo già avuto, abbiamo avuto anche ospite in studio un suonatore di oud a gennaio, e andiamo a sentire questo brano che si chiama Ajaskiar Gazel Matemser Eyer. Osman Bey era il suonatore di oud che abbiamo sentito adesso dalla Turchia. E dalla Turchia passiamo a una tradizione musicale, quella dei Balcani, molto influenzata appunto dalla musica turca e la musica orientale in generale. E qui con questa orchestra di tamburizze, che sono gli strumenti a manico lungo di varie dimensioni a corde, che hanno un suono, come giustamente dice Cowell, tra il banjo e il mandolino, però insomma per la tecnica insomma sono più da pensare come una specie di mandolini balcanici. Questa Kapetan Kismic ha suonato appunto un'orchestra di queste tamburizze che sono ancora, si trovano ancora nell'interno delle zone della ex Jugoslavia. In questo caso il brano viene proprio dalla Serbia e andiamo a sentirlo subito. General Jura, putuye, putuye, General Jura. una puttura tusco, di sbaglia sfossefo, usche camere un apri e tu puoi nere, falli! Ura! Questo appunto era un brano per un'orchestra tamburizze, strumenti a corde tipici ancora adesso delle zone interne della ex Jugoslavia, qui dalla Serbia, e il ritmo di valse si riccheggia anche un po' di influenze delle tradizioni viennesi e comunque austro-ungariche, insomma, che di un repertorio un pochino più moderno, se si vuole. Suonato sempre un po' con la cadenza, sempre con lo stile particolare di fare sempre prima il brano lento e poi la danza più veloce in fondo, che si trova in molti brani appunto delle musiche balcaniche. Il prossimo invece è un canto del nord della Grecia che si chiama Beyoglu Mane e che con un'introduzione suonata con uno strumento a fiato e strumenti a pizzico. E siamo sempre su Etnocic, siamo sempre nei Balcani e saliamo un pochino dalla Grecia ai vicini, dall'Albania. Anche qui abbiamo musica strumentale, abbiamo due violini con uno strumento a corde, un liuto, che fanno anche questo, come abbiamo sentito, questo brano della nord della Grecia era molto in stile di tipo di canto del Mediterraneo orientale. Anche questo tipo di musica che si trova in Albania, probabilmente sud dell'Albania, qui non lo scrive nelle note, risente appunto di questa tradizione più antica in qualche modo. Caba me violì. Questo quindi era un altro brano balcanico, dai Balcani, dall'Albania, era un brano per due violini e un liuto, e da qui andiamo in Italia. Sono registrazioni, ricordiamo, prima del 53 sicuramente. In quegli anni proprio Diego Carpitella, Ernesto De Martino, insieme a un altro americano importante, l'elettromusicologo Alan Lomax, viaggiavano per il sud Italia e non solo. Alan Lomax ha girato proprio tutta Italia a fare le ricerche sul campo, molto importanti, che ancora oggi sono un riferimento, perché sono riusciti a registrare delle cose che poi, insomma, sarebbero andate scomparse, di cui non ci sarebbero rimaste molte cose veramente, e sono stati quasi un po' i pionieri dell'etnomusicologia italiana moderna, insomma. E questi brani sono un po' delle curiosità, insomma, sono delle come dire, delle piccole testimonianze di qualcosa che appunto era stato registrato, tipo questo brano per fisarmonica di questo gigangone del sud Italia, Dormi e riposa. Importanti testimonianze appunto di musiche che abbiamo insomma poi risentito varie volte in altre registrazioni, come per esempio qui abbiamo una tarantella che sentiamo di sottofondo. Però visto che il tempo è stretto, vi farei sentire questo brano, Barca mia dalla Sardegna, di Peppino Ruggero, di Peppino Ruggio, scusate, giustamente, dove si sente appunto chitarra e voce, e andiamo a sentirlo. Ah! Insomma, un interessante viaggio comunque questo che ci fa fare Henry Cowell con queste registrazioni che devo dire comunque tutte di una certa qualità, sia come interprete sia come filo conduttore di queste musiche vocali strumentali che sembra quasi che abbiano degli elementi in comune che quasi come un domino si congiungano, insomma. E cosa dire? Vi rilascio e vi saluto con questa musica basca per fischialetto e tamburo, flageolet e tamburo, che è una tradizione anche questa comune anche a alcune parti una volta dell'Italia e dell'Italia del Nord, e vi do appuntamento a prossimo mercoledì, anche se probabilmente ci sarà una replica. E comunque restate sintonizzati su Radio Città del Capo e... buonanotte.